Sexta, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. Un buongiorno a tutti i nostri ascoltatori di Radio Next, di nuovo insieme per la terza settimana con queste puntate speciali dedicate a il digitale, come può aiutare imprese, professionisti e manager a superare questo momento di difficoltà e di forte impatto sociale. Abbiamo chiamato oggi al telefono Luba Manolova, che è direttore divisione Modern Workplace di Microsoft Italia, alla quale diciamo buongiorno Luba. Buongiorno, buongiorno a tutti i vostri ascoltatori di Radio 24. Grazie mille Luba. Allora, innanzitutto, Microsoft è una delle aziende più importanti, forse l'azienda più importante di software al mondo, e ha sviluppato uno strumento che si chiama Teams, una piattaforma che si chiama Teams, che in queste settimane sembra proprio, come dire, uno degli strumenti più importanti, non che sia l'unico sul mercato, ma sicuramente uno dei più importanti per aiutare i professionisti e le aziende a lavorare da casa. Ci spieghi, Luba, di che cosa si tratta? Che cos'è Microsoft Teams? Sì, assolutamente. In effetti, in riferimento proprio a questi ultimi eventi e l'emergenza, che ci vedono tutti impegnati come Microsoft nel gestire della delicata situazione, abbiamo messo a disposizione la nostra tecnologia, le competenze, i nostri esperti IT, proprio per supportare il paese con l'ecosistema anche di tutti i nostri partner per superare velocemente eventuali blocchi tecnologici e permettere l'adozione e l'integrazione di servizi e tecnologia Microsoft per professionisti, aziende, istituzioni, scuole e università, abilitando lo smart working su tutto il territorio nazionale. Perfetto. In particolare, come dicevi tu, noi stiamo promuovendo e proponiamo l'obiettivo di agevolare coloro i quali devono fronteggiare questa emergenza, la continuità del business. Ottimo. Ma garantendo anche un alto livello di produttività da remoto e in mobilità attraverso Microsoft Teams. È una piattaforma che permette di creare un ambiente di collaborazione in pochi passaggi e ottenere funzionalità illimitate come chat, videochiamate, condivisione di file, archiviazione e molto altro. Okay. Di fatto con il chat uno può comunicare con il proprio team e rimanere sempre aggiornato grazie a funzionalità di chat e ricerca senza limiti, tra l'altro potenziati con funzionalità di intelligenza artificiale, quindi traduzione con un semplice click. Quindi tu mi stai dicendo che se io ho bisogno di parlare, per esempio, con un mio fornitore che è in Germania, io gli scrivo in italiano, lui mi risponde in tedesco e mi viene tradotto in italiano? Assolutamente sì. Fantastico. Quindi consenti di leggi le conversazioni in tempo reale nella propria lingua. Fantastico. Quindi questo agevola gli scambi internazionali e multiculturali. Certo, no? Certo, assolutamente. Poi abbiamo anche, diciamo, la parte di videochiamate. Sì. Quindi puoi incontrare da remoto tutto il tuo team, ma non solo interno, diciamo, del progetto su cui stai lavorando, ma con tutta l'organizzazione, perché può reggere anche fino a 250 utenti e un'assemblea. Esatto, esatto, e fino a 10.000 utenti anche per tutta la parte funzionalità quali webcast. Fantastico. E quindi nello stesso tempo queste videochiamate possono essere tradotte e trascritte. Anche qui questo è un valido aiuto non solo per comunicare ma per anche far punto con meeting report esaustivi. Certo. E per permettere di recuperare le informazioni utili, perché trascrivendo questi meeting tu puoi anche ricercare il momento specifico durante la videoconference in cui è stato citato il tuo nome o è stata richiesta un'action specifica. Certo. O vuoi trovare proprio subito il contenuto più adeguato. Certo. Poi per quanto riguarda la condivisione di file e informazioni, anche questo è abilitato dalla piattaforma sia all'interno dell'organizzazione sia con clienti ma anche con fornitori e partner a vario livello, in modo sicuro e compliant. Ecco, questa è un'altra, diciamo, una feature molto importante. Molto importante, certo. Esatto. E tra l'altro puoi condividere questi contenuti senza problemi di spazio e conflitto tra versioni. Non ci sono limiti di spazio? Esatto, non ci sono limitazioni in questo senso, perché fino a un tera è, diciamo, lo spazio di archiviazione disponibile. Poi puoi anche ricercare, fai discovery di informazioni e dati, sempre attraverso le funzionalità di intelligenza artificiale. Questo rende possibile rintracciare facilmente contenuti e dati nei flussi di lavoro, nei meeting e nei video, come dicevo prima. Molto carina feature, visto soprattutto perché tutti lavoriamo da casa, sono i background personalizzati, quindi anche per permettere di sostituire lo sfondo reale con uno virtuale come luogo dell'azienda, immagine di un ufficio, di una spiaggia o qualche immagine ludica, no? Che renda anche più piacevole l'interazione, soprattutto in questo momento, con le persone. Poi, esatto, e poi abbiamo la possibilità anche di avere i sottotitoli in diretta, anche per rendere tutti i meeting più esclusivi e soprattutto abilitare persone con qualsiasi tipo di disabilità, sia permanente che temporanea o situazionale, e quindi anche permettendo loro di in qualche modo di fruire i contenuti pienamente. Quindi, care piccole e medie imprese, nessuna scusa, cari professionisti, cari freelance, nessuna scusa. Questo, ci possono essere anche n altri strumenti, ma l'esempio che Luba ci sta portando è di un ufficio con le persone che ci portiamo a casa nostra, e quindi la possibilità di poter lavorare e collaborare con tutti i nostri collaboratori, con i nostri colleghi, ma anche con i fornitori e con i clienti. Luba, ti faccio una domanda: ma se io ricevo una richiesta di partecipazione e io non ho Microsoft Teams, che cosa devo fare? Tu attualmente clicchi sul link che ti hanno che ti ha mandato la controparte e in automatico accedi alla, diciamo, la conferenza, al meeting, perché di fatto è disponibile la versione web based gratuita di Microsoft Teams per tutti, e quindi andando su microsoft.com sul nostro sito, ricercando Microsoft Teams, in automatico viene illustrata questa soluzione che tutti gli individui, sia professionisti che, diciamo, dipendenti di aziende, possono utilizzare in maniera gratuita. Ma questa, scusami, mi sembra, mi sbaglio o è un'evoluzione di Skype for Business che prima era Lynch? Non è un'evoluzione in questa direzione? Sì, è un'evoluzione. In effetti Microsoft Teams è il nuovo hub di collaborazione e di comunicazione che sostituisce completamente Skype for Business online. Perfetto. Però migliorandolo con tante nuove funzionalità, per esempio quelle di intelligenza artificiale che ti ho citato, ma anche, diciamo, dando la possibilità di sfruttare al massimo le funzionalità di collaboration in sicurezza, come dicevo prima, l'integrazione anche con Office 365, con tutte le servizi e l'app che molte persone già utilizzano, come Word, Excel, PowerPoint e OneNote, consente veramente di co-creare, co-lavorare sullo stesso documento e avere sempre l'ultima versione. Senti Luba, il Microsoft Teams è all'interno del pacchetto Office 365? Assolutamente sì. Quindi ce l'hanno praticamente tutti quelli che usano già il pacchetto Office, magari non sanno di averlo e magari ce l'hanno già installato, ce l'hanno già a disposizione. Sì, incluso in tutti i pacchetti Office 365 in versione cloud, anche, diciamo, di quelli più basici. In questo momento proprio di emergenza, noi di fatto, oltre la versione gratuita web-based che accennavo di Microsoft Teams, diamo la possibilità di attivare anche l'applicazione Teams in maniera gratuita, che sempre consente di creare un ambiente di collaborazione e comunicazione in pochi passaggi, che è valida fino a gennaio 2021, ovvero anche senza avere la licenza Office 365 puoi scaricare la versione premium di Teams e poterla utilizzare. Esatto. Questa è una bellissima notizia, Luba, tra l'altro ne approfitto, mi hai dato il là per comunicare, per ricordare a tutti i nostri ascoltatori che il governo italiano ha messo a disposizione sul sito solidarietadigitale.agid.gov.it tutte le offerte che vengono date, tra cui anche quella di Microsoft, che vengono date gratuitamente dalle imprese alle imprese, ai professionisti, ai cittadini, per aiutare, per coadiuvare a superare questo momento di forte impatto sociale e di difficoltà. Luba, voi in Microsoft come vi siete organizzati per poter continuare a lavorare e non perdere produttività? Noi siamo un'azienda che lavora in smart working 24 ore su 7, 37, 5 giorni all'anno praticamente, esatto. E quindi di fatto questa esperienza va in continuità rispetto a quello che facevamo già, e quindi di fatto noi da sempre stiamo in qualche modo sfruttando in qualche modo sottolineiamo qual è il potenziale trasformativo della tecnologia, soprattutto in momenti di necessità, dove noi prima lavoravamo in un contesto sempre più digital, dove tornavamo in ufficio per necessità a seconda del ruolo aziendale, ma abbiamo anche tantissime persone nel field commerciali che spesso e volentieri hanno il posto di lavoro di fatto on the go, presso clienti piuttosto in movimento, però adesso siamo tutti 100% digital, garantendo, come dicevi tu, continuità del business e la produttività, in uno spazio però un po' limitato, però dove abbiamo tantissimo tempo a disposizione. Anche qui ci sono alcuni accorgimenti importanti. Ecco, come usare il tempo? Brava, aiutami a capire come organizzare bene il tempo, perché chi non è abituato e normalmente lavora da casa, anche i professionisti, magari continuavano a lavorare da casa ma con un'organizzazione di lavoro che partiva dall'azienda. Qui adesso bisogna reinventarsi gli spazi e il tempo. Come si fa, Luba? Ecco, è molto importante sensibilizzare e formare, diciamo, le persone sulla gestione di sé, no? Per poter scegliere in maniera efficace le migliori modalità di collaborazione, certo, e comunicazione, sia per raggiungere gli obiettivi professionali e poter conciliare anche la vita privata, che comunque deve essere in qualche modo preservata, ponendo un'attenzione ancora maggiore alla salute e al benessere, no? È molto importante, perché alla fine la trasformazione digitale è una trasformazione delle persone, è la trasformazione della cultura aziendale. Certo. Quindi in questo senso noi come Microsoft da sempre abbiamo lavorato e abbiamo instaurato una cultura volta all'apprendimento continuo, alla responsabilizzazione, all'engagement, a una purpose-based culture, quindi dove la missione dell'azienda è molto importante. Poi però, ecco, soprattutto in questo momento, diciamo, di emergenza, è fondamentale per pensare anche alla salute. Quindi il passaggio al lavoro a distanza pone un po' l'accento sulla salute fisica, e quindi è meno ovvio che lavorare dove si vive, spesso a casa, può creare un po' di stress, no? Certo, certo. E per questo dobbiamo prendere un po' di tempo per il nostro benessere, per esempio esercitarci, mangiare bene, creare degli spazi lontano dagli schermi, per mantenere il benessere mentale mentre si lavora da casa. Per esempio, ti dico, noi con i nostri team abbiamo instaurato dei virtual break, o virtual caffè, o virtual momento di abbraccio virtuale, ognuno li ha chiamati in modo diverso, dove praticamente non parliamo di lavoro, ma condividiamo proprio dei casi della quotidianità o del come viviamo questo momento a casa. Il momento del break quotidiano alla macchinetta del caffè. Esatto. E quindi devo dirti che questo è molto molto utile. Dall'altra parte è importante mantenere l'operatività, quindi certo. In qualche modo siamo sempre tentati, no, di rimandare attività, scadenze mentre lavoriamo, no, da remoto, e soprattutto in questi giorni un po' straordinari, no? Però di fatto mantenere alta la produttività e l'efficienza è importante per darsi una disciplina, no? E anche il fatto di mantenere gli incontri one to one anche con le persone del team per tenersi aggiornati, fare magari piuttosto di una diciamo mail secca, una call o una videochiamata, anche questo lavora moltissimo sull'empatia, no? E quindi questo è importante in qualche modo mantenerlo. Oppure anche trovare dei momenti per un brainstorming, sì, su una presentazione, su un progetto, che spesso e volentieri non troviamo tempo nella, certo, quotidianità frenetica, no? Ma ti faccio, scusami Luba, perdonami se ti interrompo, ti faccio una domanda, sì, ma secondo te, a fronte di questo cambiamento, di questo impatto così forte che adesso sta riguardando l'Italia, ma che stiamo vedendo sempre più sta riguardando tutta Europa e probabilmente coinvolgerà tutto il mondo, secondo te alla fine di questo percorso, che durerà settimane, mesi, il tempo che durerà, sarà cambiato il modo di lavorare per sempre? Secondo me sì. Da una parte noi stiamo vivendo questa massiva digitalizzazione dell'Italia, come, sì, dici tu, non sarà solo dell'Italia, no, ma anche, certo, di tutto il mondo, di fatto parliamo di un fenomeno assolutamente mondiale. E quindi sicuramente il modo in cui gestiamo il nostro tempo, le attività di lavoro, i task cambierà, e quindi va ripensata anche per affrontare adeguatamente questo momento. È importante mettere al centro sempre la persona e lo sviluppo umano, se ci pensi, perché in effetti va trovata anche un balance tra proprio questo al diritto all'apprendimento, sì, all'interazione cooperativa, che sarà sempre più diciamo richiesta, di collaborazione, condivisione e richiesta, certo, no? Ma anche potrebbe essere un modo per ripensare i modelli di business, l'innovazione un po' in maniera proprio diffusa nella società, e quindi anche fondamentale innescare una cultura del cambiamento, la capacità di risolvere problemi e magari proprio in questi momenti di discontinuità trovare il modo come possono essere affrontati al meglio, no? E sì, questo trasformerà assolutamente il mondo in cui interagiamo, sì, con gli altri, ma anche lo stesso il mondo del lavoro. E quindi è importante creare anche sistemi di connessione delle competenze, in modo che non siano solo funzionali ai singoli task, ma supporto dell'intera organizzazione, dell'intero ecosistema, dell'intero, certo, paese. Certo. E qua è importante anche un po' la tecnologia, sempre gli analytics, intelligenza artificiale possono essere applicati sia ai pattern comportamentali dei singoli, sì, ma anche delle organizzazioni a livello aggregato, se ci pensi, e possono aiutare a indirizzare in maniera efficace carichi di lavoro, orari di task, inefficienze organizzative, per garantire un maggior bilanciamento tra la vita professionale e quella personale, anche perché adesso abbiamo un sacco di, tutto viene digitalizzato, e questo ti consente anche di in qualche modo di elaborare i dati, certo, ma sfruttandoli per trarne beneficio sia a livello personale che organizzativo. Vorrei sottolinearti anche il ruolo dei leader in questo contesto di trasformazione, perché il loro ruolo è chiave. Il leader deve essere veramente immerso in un contesto di apprendimento costante e costruire un'organizzazione che apprende, che dà voce alle persone, soprattutto in periodi di emergenza, e dove ciascuno di noi può essere supporto e attore del cambiamento. Sì. E quindi un leader efficace nella trasformazione sarà quello che riuscirà a unire la tradizione, chiamiamola certo. così, esperienza, legacy, best practice, con l'innovazione però, la voglia di imparare, l'ascolto dei giovani, l'ascolto ai clienti, l'apertura alla tecnologia saranno certo. fondamentali. Luba, io ti ringrazio tantissimo per il tuo punto di vista super prezioso, non solo per gli ascoltatori, ma anche e soprattutto per tutte le imprese che a questo punto, ancora, ripeto, non hanno veramente scuse. È il momento di rimboccarsi le maniche, non stare ad aspettare gli aiuti che possono arrivare da fuori, che certamente arriveranno, ma cercare di dare il più possibile per uscire da questa emergenza e continuare a mantenere la produttività delle aziende alta per quanto ovviamente possibile. Noi ringraziamo quindi Luba Manolova, direttore di visione Modern Workplace di Microsoft Italia, che è venuta ai microfoni di Radio Next. Grazie mille Luba. Grazie infinite a tutti voi e buon smart working. Grazie anche a te Pepe. Ringraziamo anche Felix dall'altra parte del vetro, che ci ha aiutato a portare a termine, a portare a casa anche questa puntata. Ringraziamo Radio Veronica One, la radio libera piemontese, che ci sta ospitando per queste puntate di emergenza durante questa situazione. Non mi resta che augurarvi sicuramente una buona domenica e darvi appuntamento alla prossima settimana alle 13.45 con una nuova puntata di Radio Next, oppure in podcast con la versione estesa che verrà pubblicata lunedì. Un saluto da Pepe Moder.